sussurrato il mio orecchio, sai, una semplice casualità. Mi ha stretto forte la mano, mi fa perdonami se puoi. Ieri ho incontrato il mio orecchio, gli ho detto portami da lei, la campionessa del drinco, la campionessa del drinco. Guardando con attenzione, ho visto bene, ho visto amore, ne ho tratto un calcolo esatto, quello che ho fatto non mi serve più. Domani parto a L'Avana, al civico 123, la campionessa del drinco, la campionessa del drinco, la campionessa del drinco, la campionessa del del drinco, la campionessa del drinco, la campionessa del drinco, la campionessa del drinco.